Investire informati. And my idea is anything that becomes complex becomes a lot more fragile to black swans. To these events named, you know, black swan. Hai sentito, l'ha detto, il black swan. Black swan, cioè cigno nero. Esatto, e lui è proprio l'autore di questa teoria, quella del cigno nero, Nassim Taleb. Esattamente, lui ha scritto questo fortunato volume, questo un saggio in realtà, questo fortunato saggio che ha trovato questa definizione, questa metafora del cigno nero per indicare l'evento imprevisto. E devo dire che questo coronavirus effettivamente ha tutte le caratteristiche del cigno nero indicato dal professor Taleb. Ma L'Oreal Rubini non è d'accordo e lo scrive oggi proprio sul Sole 24 Ore, lo dice anzi ad Andrea Franceschi, perché è bianco, perché in realtà è un rischio, era un rischio prevedibile ma sottostimato. Vabbè, ma pure lui però, sempre un po' la Cassandra in questi momenti, sempre a sconfessare tutto quello che dicono gli altri. Non vorrei lanciare anche dopo le polemiche tra virologi, anche le polemiche tra economisti e saggisti. Allora guarda, facciamo così, io do intanto il benvenuto come si conviene a Due Dinari, ancorché telefonicamente, a Donatella Principe, Director Marketing and Distribution Strategy di Fidelity International. Buongiorno, buongiorno dottoressa Principe. Che però, di cui però abbiamo perduto il collegamento. Pronto? Non è... Pronto? No. Donatella, non c'è, adesso la ripeschiamo rapidamente. Va bene, ritorniamo allora invece a quanto dicevi del cigno nero e cigno bianco. Ci sono contaminate le linee telefoniche, speriamo di no. Allora, chiediamola a Enrico Vaccari, che è già qui con noi in studio, responsabile della clientela istituzionale di Consult Invest. Cigno nero o cigno bianco? Ma fa molta differenza che abbia un colore o un altro. È comunque un cigno, cioè qualcosa che non ci aspettavamo. Ma in realtà sembra un pipistrello, perché è da lì che arriva la crisi e probabilmente bisognerà cambiare tipo di animale. In realtà sono tutte espressioni per definire una crisi inaspettata. No, tra l'altro dopo il toro e l'orso, ovviamente non vogliamo popolare il nostro zoo del mercato finanziario, certo, il pipistrello adesso. È pipistrello, l'oroscopo cinese ci dà come quest'anno come quello del topo, che porta anche abbastanza sfortuna, e questo l'abbiamo detto già nei giorni scorsi, eccoci qua a posto. Ecco, però scusate, posso fare l'uomo della strada veramente? Sì. Le cose che poi definiamo inattese a volte non è che siano così inattese. Qualcuno diceva, mi pare John Lennon, la vita è quello che ti succede mentre tu sei impegnato a fare progetti. Ecco, forse vale un pochino anche per i mercati finanziari. Uno fa anche dei progetti, si immagina che certe cose possono avere un certo andamento, che alcuni prodotti possono andare bene o meno bene, però poi succedono cose effettivamente, perché nella vita di tutti i giorni succedono cose che modificano magari le nostre aspettative. E allora, come ci si prepara, come si gestiscono queste evenienze che a mio giudizio occorrono, intervengono un po' sempre? Sì, in realtà il modo per prepararsi ad affrontare queste giornate di pioggia che poi comunque porteranno sicuramente ad un arcobaleno, quindi le dobbiamo tollerare in questa fase, è quello di avere sempre un orizzonte temporale di medio e lungo termine. Non si compra né si vende in borsa guardando le notizie del giorno, ed è una cosa soprattutto da non fare oggi, e soprattutto oggi in un momento così particolarmente delicato. Però ci sono alcuni aspetti di questa crisi che spingono ad essere un po' più ottimisti, perché le crisi vere, quelle che hanno colpito i mercati con effetti di lungo periodo, sono arrivate da crisi di liquidità sistemica. Nel 2008 il fallimento di Lehman, nel 2018 il rialzo dei tassi da parte della Fed. Sono queste le crisi che hanno avuto un'incidenza di lungo termine, sono state difficili da recuperare. Normalmente le crisi che seguono degli eventi di tipo epidemico hanno a 3, 6, 12 mesi un effetto positivo sui mercati, quindi alla fine si recupera e si recupera molto velocemente. Questa crisi ha degli aspetti che la equiparano a un grande terremoto, un cataclisma naturale, e quindi c'è una necessità di intervento immediato, ed è qui che il mercato sta cercando di forzare. Il mercato si sta rivolgendo ai banchieri centrali e ai governi per avere risposte, e il mercato spinge per avere queste risposte. Al momento questo interventismo delle banche centrali c'è stato solamente nelle zone direttamente e inizialmente interessate alla propagazione appunto del contagio. Abbiamo visto quello che è successo in Cina, abbiamo anche commentato prima a microfoni spenti quello che è l'iniziativa che stanno prendendo le autorità ad Hong Kong con l'helicopter money, con la distribuzione relazione di liquidità diretta, appunto, sì, fra singoli individui. È molto, no? Bella questa espressione dell'helicopter money, perché vuol, sì, dire appunto come se uno gettasse denaro, esatto, da un elicottero. Avete, e quindi va un po' indiscriminatamente a tutti. Quello che succede a Hong Kong, stavi ricordando tu, è, mi pare danno più di $1,000 a testa, così per esistere in qualche, infatti, modo, no? E allora, Donatella, principe, effettivamente, intanto buongiorno, vediamo se riusciamo a sentirla adesso. Buongiorno, mi sentite adesso? Molto bene, grazie. Forte e chiaro. Forte e chiara. Anche in questo, perfetto, caso, ancora una volta, le banche centrali sono chiamate a sperimentare delle iniziative mai viste prima. Quali vi attendete prossimamente? E ancora una volta toccherà appunto alle banche centrali arginare le paure di tutti ed un rischio contagio finanziario ancora più preoccupante rispetto a quello che abbiamo visto in questi giorni? Allora, io farei un piccolo passo indietro, perché persi nella quotidianità delle notizie e dei tweet magari non mettiamo in prospettiva quello che sta succedendo sui mercati. È vero, c'è stata una crescente volatilità, ma se io guardo le crisi che ci sono state negli ultimi 20 anni, il picco di volatilità che stiamo registrando oggi è il secondo più basso. Questo perché ormai già dal 2019 è tornata ad essere pienamente operativa sul mercato la puzza delle banche centrali. Fed e BCE in testa, ma sono state numerosissime le banche centrali che nel corso del 2019 hanno tagliato il costo del denaro, ben 51. Il grande assente del 2019 era stata la People's Bank of China, preoccupata di rimettere a posto la situazione del debito in Cina. La People's Bank of China ha aperto la strada per il contrasto sui mercati al coronavirus il 3 di febbraio. Ha messo in atto un'operazione che è stata soprannominata Shock and Dove, colpisci e terrorizza, la versione cinese del Whatever It Takes di Draghi. Ha iniettato nel mercato in due sole settimane tutta la liquidità che ha immesso sul mercato in un anno dopo il fallimento di Lehman Brothers. Non solo liquidità, ma dopo aver lasciato inalterato il costo del denaro durante tutta la guerra commerciale con Trump, ha tagliato il costo del denaro affinché questa liquidità fosse più accessibile sotto il profilo dei costi. Quindi la reazione del renminbi dimostra che il mercato non si è fatto prendere dal panico. Addirittura il 3 febbraio sullo Stock Next si sono registrati i più grossi flussi in entrata sul mercato azionario cinese. Ovviamente non tutte le banche centrali hanno lo spazio di manovra, diciamo le frecce nel proprio arco che ha la People's Bank of China, però è sicuro che siamo già su un orientamento espansivo di politica monetaria che supporta la crescita mondiale. Due di denari. E non la lunedì nera, non conosce default. Ehi raga, avete soldi da investire? Diteglielo al Meazza e alla Rosciani, e anche voi diventerete americani. Ma io questa volta ho seguito il consiglio del barone Rothschild: quando il sangue scorre per le strade è il momento di comprare, e quindi ho comprato qualche azione a prezzo di saldo, vista la psicosi del momento. Vediamo se il barone Rothschild c'ha ragione. Beh, questo è certamente l'atteggiamento dell'investitore professionale che, con cali così importanti, perché quelli che si sono manifestati in questi giorni hanno azzerato la prestazione degli indici mondiali da inizio anno, che era anche abbondantemente positiva, sicuramente qualcuno è andato a caccia di opportunità, le ha colte, e quindi ne avrà ragione poi nei prossimi mesi quando faremo un bilancio in una condizione emotiva un po' più serena. È bene però che un piccolo risparmiatore non si avventuri individualmente in scelte in questo periodo. Volevo poi tornare per un attimo con Donatella Principe sulla questione dell'interventismo massiccio delle banche centrali registrato nel 2019 e quest'anno da parte appunto della Banca Popolare Cinese, che è stato il più imponente proprio perché quella era la zona con il contagio più preoccupante da un mese a questa parte. In realtà ieri un altro suo collega, parlando con il Sole 24 Ore, ha detto: sì, le banche centrali possono fare molto, ma non stampano vaccini. Per cui, come a dire, insomma, il tema della salute, quando è questo quello che catalizza l'attenzione di tutti e determina questi cali, in realtà anche lì poi le banche centrali, per quanto potranno intervenire, non potranno fare all'infinito moltissimo. Come l'ha letta lei? Non so se l'ha letta questa dichiarazione, insomma, cosa ne pensa? La trovo molto sensata. Farei una considerazione. Stiamo già venendo da una stagione molto lunga di politica monetaria espansiva, il che vuol dire che il vantaggio marginale di ulteriori interventi tende sempre a ridursi e ha un effetto più psicologico che reale. L'intervento delle banche centrali, come per esempio quello fatto dalla People's Bank of China, servono a garantire anche il funzionamento dell'economia e mercati in un momento in cui una situazione di crisi potrebbe metterlo sotto stress. Quindi separiamo l'effetto funzionamento dall'effetto stimolo sulla crescita. Per quanto riguarda l'effetto stimolo sulla crescita, è ovvio che molto di più possono fare interventi diversi, diretti, come quelli per esempio che ha fatto di nuovo la Banca Popolare Cinese insieme alla Commissione per i regolamenti delle banche e delle assicurazioni, aumentando le garanzie sui prestiti a chiunque è stato colpito dal coronavirus in Cina, impedendo alle banche di richiamare anticipatamente i prestiti, agevolando la concessione di prestiti, tutte misure volte a far sì che una volta superata la fase di picco dell'epidemia l'economia possa tornare alla normalità. Ma c'è un elemento che secondo me è fondamentale. Voi prima avete citato il fatto che il mercato sta cercando di forzare la mano alle banche centrali. Se, come è successo in altri casi come la SARS, questa epidemia fosse transitoria, durasse un trimestre, al massimo 4-5 mesi, le reazioni delle banche centrali oggi in questo contesto sarebbero esagerate. Il Fondo Monetario Internazionale questo weekend ha rivisto le previsioni di crescita alla luce del coronavirus. Risultato? Quest'anno la stima di crescita passa da più 3,3 a più 3,2. Viene da citare Shakespeare e dire molto rumore per nulla. Anche perché chi guarda oggi ai possibili impatti sul coronavirus, sull'economia cinese che è il motore della crescita mondiale, spesso non tiene conto dei cambiamenti che negli ultimi anni sono intervenuti nell'economia cinese e che le consentono di ammortizzare molto meglio che ai tempi della SARS e della MERS l'impatto del coronavirus. E comunque pare che la fabbrica del mondo si stia rimettendo in moto, ci diceva 2 giorni fa Antonio Cesarano di Intermonte, sta ricrescendo il tasso di inquinamento delle aree a maggior vocazione produttiva e questo paradossalmente, Greta non lo vorrà mai, ma è un segnale anche positivo di rimessa in moto dell'economia da quell'area. Ecco, ma infatti... Assolutamente. No, prego, prego, dottoressa, prego. No, dicevo che forse uno degli elementi più importanti che si tende a sottostimare è che la Cina non è più la Cina di 20 anni fa che viveva di industrie ed esportazioni. La Cina è un paese il cui PIL dipende per più del 75% dai consumi ed è un paese fortemente digitalizzato. La penetrazione di internet è oggi 10 volte superiore a quella che era ai tempi della SARS. La Cina è il più grande mercato dell'e-commerce al mondo. Vale 1.500.000.000.000. Vuol dire che se io metto insieme gli altri 10 mercati più grandi del mondo non faccio la Cina, il che vuol dire che molte delle vendite che in altri paesi sarebbero perse, in Cina sono semplicemente digitalizzate. La Cina è la più grande comunità di millennials del mondo, 400 milioni di ragazzi, per cui il luogo di acquisto naturale non è un negozio fisico, è il loro smartphone. E io do sempre un dato su tutti che è scioccante. Ai tempi della SARS il mercato totale dell'e-commerce in Cina valeva 500 milioni. Nel single day del 2019 Alibaba ha fatto lo stesso quantitativo di vendite in 30 secondi. Questo ci dice sostanzialmente, qui chiamo in causa anche Vaccari, questo ci dice sostanzialmente che la tecnologia ha così mutato lo scenario da far immaginare che il recupero da questo effetto coronavirus potrebbe essere anche più rapido di quello che ci figuriamo. Mi pare però che i timori siano, adesso io non vorrei prendere le posizioni invece di Rubini che mi pare più critico e più pessimista, i timori siano per un effetto comunque recessivo che per quanto breve possa essere qui da noi con i consumi quasi fermi. Potrebbe avere così un effetto molto fastidioso. E l'altra cosa che mi pare molto temibile è un sostanziale rallentamento dei commerci globali, libertà di movimento delle merci e delle persone, che è una cosa che questo virus comporta. Che già erano stati peraltro un po' disturbati dalla questione della guerra sui dazi e dalle trattative commerciali che sono state estenuanti per 2 anni tra Stati Uniti e Cina. Ma diciamo che le prime previsioni di quello che potrebbe essere l'impatto immediato di questa crisi parlano di 1 trilione di calo sul commercio mondiale, quindi sul PIL mondiale. Però se noi andiamo a vedere i dati reali, a ieri, quindi non contando la giornata di oggi che è altrettanto brutta, i mercati hanno perso 5 trilioni di capitalizzazione. E quindi voglio dire, l'effetto che i mercati è quello di amplificare le aspettative, perché poi si innesca la speculazione, l'effetto panico, ma bisogna rimanere saldi sui numeri. Concordo molto con quello che diceva la collega prima, cioè i numeri non ci dicono che l'impatto sulle economie è così drammatico, quindi bisogna aspettare. Aspettare che cosa? C'è una cosa che i mercati si aspettano dai governi e dalle banche centrali. Concordo sul fatto che le banche centrali, la liquidità è abbondante, non c'è bisogno di ulteriori iniezioni di liquidità, soprattutto in questa fase, perché sarebbe muoversi troppo d'anticipo. Ma c'è una cosa che ferma i mercati, a volte più della liquidità, e sono le parole. Nel 2012 Mario Draghi ne pronunciò 3 parole che rimasero nella storia e fermarono i mercati. E quindi forse in questo momento i mercati si attendono, da qui a metà marzo, quando ci saranno le riunioni delle 2 grandi banche centrali, qualche parola di rassicurazione, soprattutto sulla tenuta del commercio mondiale, soprattutto facendo riferimento anche alla seconda domanda, a quello che potrebbe essere l'effetto su questo interscambio, certo, tra paesi. Vale la pena anche spiegare un altro aspetto, Vaccari, perché forse questo non lo facciamo mai in misura sufficiente. Quando vediamo delle vendite così importanti sui mercati finanziari, ricordiamo che c'è anche quella componente di investimento passiva che amplifica gli andamenti nel bene o nel male. A volte scattano ordini di vendita in automatico perché le quotazioni, Donatella Principe stava confermando anche questo aspetto, quindi non è solo un panico generalizzato determinato da operatori che si spaventano, scappano dai mercati, ma c'è anche un'amplificazione determinata da questi fattori tecnici che non spieghiamo mai a sufficienza, ma che in realtà spiegandoli servono un po' a rassicurare forse anche il piccolo risparmiatore in ascolto. Principe. Assolutamente sì, e io dico sempre che è importantissimo mettere tutte quante le informazioni in prospettiva. Ora, sicuramente l'economia cinese è il motore della crescita globale ed è giusto che noi guardiamo a quello che sta succedendo in Cina, però è anche vero che dobbiamo essere in grado di distinguere i rumori di sottofondo dai veri game changer. È stata condotta nei giorni scorsi un sondaggio presso le Camere del Commercio americana, inglese e dell'Unione Europea in Cina. Sapete cosa preoccupa gli operatori? Ancora la possibilità che dopo le elezioni americane Trump faccia ripartire la guerra commerciale. Del coronavirus si stanno occupando pochissimo, perché non è su quello che baseranno le loro decisioni se delocalizzare al di fuori della Cina. E noi dovremmo avere un approccio pragmatico come quello degli imprenditori, come investitori. Se io ho un portafoglio costruito con giudizio, cosa vuol dire? Non ho inseguito le mode, ho comprato le cose giuste basandomi sulle valutazioni, non inseguendo il rendimento, ma comprando sulla base del premio per il rischio. In casi di volatilità come questi, che sono turbative e temporanee, io posso addirittura andare ad aumentare il mio portafoglio perché è composto di attività sane. Non solo, se io ho deciso di investire su temi di lungo periodo, questi temi di lungo periodo hanno la caratteristica di essere ammortizzatori psicologici, perché non risentono di questi eventi. Il tema della demografia non risente del fatto che il petrolio quoti 50, 70, che i tassi in America siano allo 0,75 al 2% o che ci sia il coronavirus. I megatrend sostanzialmente, sì. I megatrend. Stessa cosa la tecnologia, perché per quanto in questo momento i FANG, quindi i famosi Facebook, Apple, Amazon, siano tra i titoli più venduti sul mercato, non facciamo la parte per il tutto. Il trend della tecnologia è con noi, resterà con noi e anzi nei prossimi anni vivrà un'accelerazione, e proprio dalla tecnologia ci sarà l'effetto ammortizzatore sulla caduta del PIL, che sarà molto meno drammatica che in altre circostanze. La N di FANG, che è Netflix, ieri sì, in realtà è cresciuta molto in borsa, e ho pensato, tutti chiusi in casa a guardare le serie televisive, e qua la chiudo. Vabbè, insomma, però in casa si possono fare tante cose, ad esempio ascoltare la radio, sì, e rispondere al nostro domandone, perché il giovedì c'è il domandone. Allora, Le risposte saranno accettate solo e soltanto telefonando a 800 24 00 24. Al primo che ci fornisce, o alla prima che ci fornisce la risposta esatta, in omaggio la guida, l'instant del Sole 24 Ore con le previsioni, i comportamenti dei vari mercati, un focus che è stato diffuso pochi giorni fa proprio dal Sole 24 Ore. Vado alla domanda. Vogliamo sapere chi ha coniato l'espressione cigno nero. Poiché la domanda l'ha fatta Deborah, che è cattiva, lei vorrebbe il nome e il cognome, però vediamo. Cosa se... Cosa vuoi tu, solo il nome, scusa? No, mi accontentavo anche solo del cognome. Comunque adesso, traffico. Due di denari. Quindi ripetiamo la nostra domanda, il nostro domandone. Vogliamo sapere chi ha coniato l'espressione il cigno nero, cigno nero. Nome e cognome, perché sennò Deborah si impermalisce. Accettiamo risposte solo e soltanto a 800 24 00 24. Non mandateci per questa cosa SMS o WhatsApp, perché non possiamo riconoscervi il primato, anche se siete benissimo, stati i primi a dare la risposta esatta. Chi sarà il primo o la prima? Per chi sarà il primo o la prima, l'inserto del Sole 24 Ore pubblicato proprio da pochi giorni sui comportamenti dei mercati finanziari, i comportamenti dei risparmiatori nel corso del 2020. Deborah. Allora, Enrico Vaccari, abbiamo detto all'inizio, anche se noi siamo sempre molto prudenti nell'utilizzare termini impropri, volevamo oggi regalare ai nostri ascoltatori una sorta di manuale antipanico per gestire emotivamente bene queste fasi di mercato avverse. Allora, diamo un po' così qualche regola di comportamento in questo momento. Per chi ha, noi lo diciamo sempre, obiettivi finanziari di lungo termine, è proprio questo il momento di stare distaccati dalle notizie e non mettere mano al proprio portafoglio, alle proprie scelte condivise con il proprio consulente. Che cos'altro è bene fare in questo momento? Qualche ascoltatore dice, beh, sarà proprio questo il momento in cui in realtà in molti disinvestiranno e aumenteranno la quota di liquidità già importante detenuta sul conto corrente. Si rischia addirittura questo? Che ne pensa? Ma qualcuno cade spesso trappola di questi crolli di mercato che chiaramente lasciano molto spavento, però devo dire che questa volta rispetto ad altre volte voi non avete notato? Non abbiamo notato questo, perché c'è nei clienti, nei grandi clienti, negli clienti istituzionali, un'attenzione molto forte per l'altro problema che è collegato a questa crisi, cioè quello della salute. E la salute viene questa volta veramente prima di tutto. Ho trovato stranamente, in una crisi così profonda in termini di cali percentuali delle borse, un atteggiamento più distaccato da parte della clientela. Evidentemente la crisi ha colpito nel nostro quotidiano e questa la rende abbastanza differente dalle crisi che ci sono state in passato. Per cui devo dire che per il momento la crisi si sta rivelando uno shock forte temporaneo, ma potrebbe essere che nelle prossime settimane abbiamo sicuramente degli orizzonti un po' più sereni, soprattutto in riferimento a quelle che sono ricadute economiche effettivamente. Si stanno dando parecchi numeri, ma non sono in questo momento numeri reali. E infatti basti vedere quello che succede a Milano, dove sta praticamente cancellandosi un evento dietro l'altro, anche importanti come il Salone del Mobile. C'è un ascoltatore che dice, tutti dicono di comprare, ma bisogna stare attenti, perché se va ancora più giù che cosa succede? Allora non succede, ah ecco qua, aspetta che Marco l'aveva messo proprio in linea, non me ne ero accorta. Carlo da Cuneo, faccia finta che non ho detto niente, la ripeta lei correttamente la sua domanda. Sì, certo, dico, sono oltre 10 anni che il mercato sale, è il periodo più lungo nella storia delle borse, le quotazioni sono molto alte, i vari indicatori dicono che sono molto alte, è probabile che vada giù, che vada molto più giù. Cosa succede se fa veramente un calo importante come quelli che abbiamo visto nelle crisi storiche passate? Certo. Tutti quelli che dicono compra, compra, compra, andiamo a prenderli a casa? Ma Carlo, dipende poi quanto si compra e in che momento, perché si può comprare anche pochino, un po' alla volta, e attivarsi con un piano di accumulo approfittando un po' di queste discese che magari potrebbero essere anche durature, Vaccari. Assolutamente, la formula del piano d'accumulo sull'investimento azionario, ma anche sull'investimento obbligazionario in questa fase di abbondante liquidità, può essere una formula che funziona sempre, va bene in tutte le stagioni, a maggior ragione va applicata in questi momenti. In momenti di forte volatilità il cliente deve approcciare al suo orizzonte di investimento facendo un piano d'accumulo, quindi entrando poco per volta. E poi sono parzialmente d'accordo con quello che dice l'ascoltatore, perché è vero che le valutazioni erano eccessive su alcuni mercati, ma non è vero in assoluto per tutti i mercati. Quindi queste correzioni di questi giorni stanno portando i livelli delle valutazioni fondamentali su livelli molto attraenti, quindi presto o tardi i grandi compratori torneranno. Ma infatti, da quello che diceva ad esempio Donatella Principe, mi pare di capire che questa volatilità potrà essere anche molto pronunciata di qui alle prossime settimane, ma, se interpreto bene quello che ci diceva, anche abbastanza circoscritta, perché ci sono diversi segnali e anche diversi mezzi di recupero veloce da questo aspetto di crisi. Principe. Sono assolutamente d'accordo, soprattutto considerando che noi viviamo in quel mondo che oggi è stato soprannominato sui mercati finanziari del tweet beta, cioè la reazione del mercato è fortemente legata al flusso di notizie. Noi stiamo vivendo il primo caso di un'epidemia globale ai tempi dei social media. Quando c'era la SARS non avevamo Facebook, quando c'è stata la MERS non avevamo Twitter, il che vuol dire che noi saremo bombardati quotidianamente di notizie. Ci sarà un momento con il periodo di aprile, quando inizieranno ad uscire i dati del primo trimestre, che saranno oggettivamente brutti, in alcuni casi molto brutti, che ci sarà forte emotività e forte volatilità. Però se quello che noi crediamo in questo momento, considerando anche che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che forse in Cina si è raggiunto il picco dei contagi, ebbene lo scenario di fondo resta positivo, di una crescita globale, quindi continua la più lunga fase di crescita della storia. Quindi sicuramente è vero che abbiamo assistito al più lungo rally dei mercati finanziari, ma perché questo è supportato dalla più lunga fase di espansione economica. Finché ci sarà espansione economica, ci sarà crescita degli utili e in più avremo il supporto delle banche centrali, ci sono i presupposti perché le fasi di volatilità siano temporanee, e quindi quello che noi piuttosto dobbiamo fare è diventare, se possibile, ancora più disciplinati nel costruire i nostri portafogli. Dicevo prima, non inseguire le mode, il tema centrale della diversificazione, non comprare tutto e subito, come diceva il collega, il piano di accumulo è uno strumento che nel lungo periodo gioca a nostro favore. In un momento in cui c'è tanta liquidità, sono tornati a crescere le obbligazioni al mondo che danno rendimenti negativi, siamo intorno ai 14 trilioni, c'è una ricerca esasperata di rendimento, non mettiamoci ad inseguire il rendimento e chiediamoci: questo rendimento mi paga per il rischio che mi sto assumendo? Sì, compro. No, non compro. E aggiungo un'altra cosa. Noi italiani abbiamo, rispetto ad altri paesi, un po' una condizione più infelice, perché la nostra situazione economica già prima dell'arrivo del coronavirus era più fragile rispetto a quella di altri paesi. 2018-2019 siamo stati il paese che è cresciuto meno in Europa. 2020 si prevedeva già che saremmo stati il paese che sarebbe cresciuto meno in Europa. Noi abbiamo sempre un tasso di crescita da... Stiamo chiudendo, dottoressa Principe, e quindi insomma... Quindi non ci facciamo distrarre dalle notizie italiane e manteniamo una prospettiva più globale. Benissimo. Non si è fatto distrarre Maurizio, velocissimo, ci ha chiamato da Roma. Chi ha coniato l'espressione cigno nero, nome e cognome? Buongiorno Maurizio. Buongiorno, Nassim Nicholas Taleb. Grazie. Bravissimo. Maurizio, che riceve l'inserto del Sole 24 Ore, e noi con dispiacere, perché ci sarebbe piaciuto continuare, ma li richiameremo. Salutiamo Enrico Vaccari, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E Donatella Principe, noi torniamo domani? Ma certamente. Abbiamo una due di denari virus? Un po' sì. A domani.